giorno, come tanti altri, Melissa prepara i suoi libri. Prendi la colazione, sbrigati che farai tardi. Mi raccomando, appena arrivi, fammi sapere, prendi le chiavi. Sei la mia luce, tu sei il mio cuore, la mia speranza, tu sei il mio amore. Strada che arriva a scuola, con passo lesto lei camminava. Lei non sapeva che dietro l'angolo c'era la morte che l'aspettava. A 16 anni c'è solo vita, ed ogni attimo è solo aurora. Lei andava fiera, senza paura, hanno ammazzato la mia bambina. Non c'è peccato che sia più grande che togliere vita all'innocente. L'inferno esiste su questa terra. Muore una figlia, muore una stella. Appena arrivi, fammi sapere, prendi le chiavi. Sei la mia luce, tu sei il mio cuore, la mia speranza, tu sei il mio amore. A 16 anni c'è solo vita, ed ogni attimo è solo aurora. Lei andava fiera, senza paura. Hanno ammazzato la mia bambina. Non c'è peccato che sia più grande che togliere vita all'innocente. L'inferno esiste su questa terra. Muore una figlia, muore una stella.